Benvenuti alla terza lezione del corso di Chumash. Abbiamo visto la scorsa volta la prima delle 10 prove alle quali è stato sottoposto Avraham Avinu, ed era la prova di Lech Lecha, quella di uscire da tutto ciò che era il suo mondo conosciuto, dalla sua casa, dalla sua famiglia, lasciarla, eccetera, e l'avviamento verso Eretz Israel, quella che poi sarebbe diventata Eretz Israel. Ora, entrando nelle prossime puntate, diciamo, della vita di Avraham Avinu e di Sarah, che la Torah ci racconta, ci rendiamo conto appunto che stiamo parlando di una lista di prove alle quali sono stati sottoposti. I maestri parlano di 10 prove. Le prove di cui parleremo oggi, proseguendo con la nostra parasha di Lech Lecha, sono quelle della carestia e la discesa in Egitto, quindi lasciare la terra che è stata promessa, la terra che è stata indicata, e andare per motivo della carestia in Egitto, e la prova del rapimento di Sarah da parte del faraone. Ora, quando parliamo di prove, bisogna capire cosa si intende per una prova. In ebraico si dice nisayon, mettere alla prova è un nisayon. Allora è chiaro che la nisayon è una prova, è come un esame per capire la forza della fede della persona, della sua emunà in HaKadosh Baruch Hu. È un modo per testare la potenza dello spirito della persona, la potenza interna, il livello spirituale della persona. È qualcosa che, diciamo, tutti noi passiamo nella vita. E la domanda è: a cosa servono queste prove? Perché serve un esame per HaKadosh Baruch Hu? Se lui già conosce noi, conosce i nostri pensieri, conosce le nostre forze, conosce le nostre debolezze, sicuramente HaKadosh Baruch Hu non ha bisogno della prova per capire qual è la situazione. E di conseguenza la prova in realtà non è spiegabile in quella maniera così semplice, bensì la prova non è solamente un modo per capire cosa succede all'interno della persona e come reagirà in situazioni avverse, bensì la prova è uno strumento attraverso il quale si potrebbe rafforzare lo spirito della persona. Qualora la persona dovesse cogliere la prova nella maniera giusta, potrebbe creare in sé le possibilità di superarla, cosa che forse non avrebbe avuto quella forza se non fosse per quella prova. In altre parole, la prova diventa come se fosse una palestra spirituale, un luogo in cui si mette alla dura prova la forza spirituale della persona. Perché? Perché diventi più forte. E quindi, in un certo senso, abbiamo anche il significato della parola nisayon, appunto prova, in ebraico legato alla parola nes. Nes, comunemente tradotto con miracolo, ma il significato etimologicamente parlando della parola Nes in realtà è qualcosa che viene innalzato in alto, uno stendardo si chiama Nes in ebraico. Per questo lo usiamo per un miracolo, per dire un evento che viene in qualche maniera, non è un evento normale, viene innalzato dagli eventi normali in un certo senso, cioè posto in rilievo. Ma il termine Nes stesso significa appunto qualcosa che viene innalzato. Allora anche nel Nisayon possiamo applicare questo significato. Il Nisayon, la prova, è un metodo, è uno strumento, è un veicolo attraverso il quale HaKadosh Baruch Hu ci aiuta a crescere. E non solamente che lui deve controllare, perché lui conosce tutte le realtà che esistono. I maestri nel Midrash fanno una metafora interessante, dicono: una persona, che un artigiano che crea delle bottiglie di vetro o di coccio, delle brocche, le forma e poi controlla se sono state fatte bene. Ok? Come in ogni azienda che produce, si prendono dei campioni e si fanno dei controlli, si fanno dei test, si sottopongono ai test di laboratorio e così via. Allora, anche anticamente c'era una cosa simile. Il Midrash parla di questo, ma dice: quali sono quelli che vengono controllati dal titolare dell'azienda? Quelli che sembrano forti e buoni, quelli che si vede già subito che sono stati fatti in maniera non così buona, che con qualche tipo di movimento sbagliato o qualche tipo di forza applicata, anche non fortissima, non reggerebbero, si romperebbero, si spaccherebbe il vetro, si romperebbe il coccio. Allora quelli non li guarda neanche. Quelli che sembrano perfetti sono quelli che sono sottoposti al test, per vedere davvero la forza qual è. E così dice il Midrash, a Kadosh Baruch Hu, chi è che mette davanti alla prova? Mette la prova davanti a chi? Non davanti ai malvagi, che già si vede che non sono riusciti a domare il loro istinto, ma davanti ai giusti. In altre parole, il Midrash ci sta dicendo che la persona, quando si trova davanti ad una prova, non deve considerare la situazione una punizione, e cioè sono stato messo davanti alla prova perché non merito di avere una vita tranquilla. Al contrario, esattamente al contrario, colui che è stato messo alla prova, questa è una cosa indicativa dell'idea che è preso ancora più in considerazione in alto. E quindi, sempre legandoci al concetto di Nessa, qualcosa che è più elevato. Bene, arriviamo quindi al testo stesso della Torah, proseguendo da dove abbiamo interrotto nella scorsa lezione, la seconda. Ora, nel capitolo 12 di Bereshit, il Parashah di Lech Lecha, al versetto 10, riprendiamo la storia di Avram e Sarah. La Torah ci dice, leggiamo e traduciamo tutto il brano e poi approfondiamo. Vayehi ra'av ba'aretz, c'era una carestia nella terra, in quella terra verso la quale gli è stato comandato ad Avram di andare, Lech Lecha, arriva lì e c'è la carestia. Vayered Avram Mitzrayma, Avram quindi si reca in Egitto, si usa il termine scendere perché si va a sud da Eretz Israel in Egitto, ma anche perché si scende spiritualmente uscendo da Eretz Israel. Mitzrayim alagur sham, va lì per trattenersi lì in Egitto. Ki chave da ra'av ba'aretz, poiché la carestia fu molto pesante, molto importante nella terra. Vayehi kasher ikriv lavo Mitzrayim, quando fu vicino ad arrivare in Egitto, vayomer el Sarai ishto, disse alla sua moglie Sarai, hinenaya dati ki isha yefat mare at, so bene che tu sei una donna di bell'aspetto, sei molto bella. Qual è il problema? Vehaya ki iru otacha mitzrim, quando gli egiziani ti vedranno, veameru ishto zot, si diranno sicuramente lei e la sua moglie, vedono arrivare una coppia, ovviamente si crede marito e moglie. E di conseguenza, ve'argu oti ve'otach yichayu, uccideranno me e a te lasceranno in vita. Perché? Cosa c'entra? Perché dovrebbero fare questo? Ebbene, bisogna anche capire il contesto storico di queste cose, che all'epoca c'erano molti popoli che avevano delle regole che a noi oggi possono sembrare incredibili, per quanto non siano moralmente corretti anche nel mondo in generale, non solo secondo l'ebraismo. E poi anche le priorità delle morali, che alcune cose che a noi sembrano scorrette per loro erano corrette, ma altre invece tenevano ad altre regole, al tempo stesso corrompendone altre. Per esempio, questo è il caso perfetto, questo è l'esempio perfetto. La regola era, anche in Egitto, così come in altri luoghi, anche in altri tempi, non solo in quel tempo, che qualsiasi bella donna che sia desiderata dal re o dall'imperatore, dal monarca, poteva essere portata presso di lui. E quindi Rapire una donna e portarla dal re era per loro una cosa consentita, rientrava nelle loro norme. Ovviamente noi consideriamo queste norme norme corrotte, però questo rientrava nella norma. Nonostante la corruzione di questa norma, avevano l'idea che non si può prendere la donna sposata. Allora come si risolve la situazione? Molto semplice, si uccide il marito. Cioè l'uccisione del marito non è un problema, prendere la moglie sposata è un problema. Ok? Quindi entriamo in questa mentalità per capire la mentalità, in questo caso degli egizi in quel momento, vedendo la coppia, vedendo che Sara era una donna molto attraente, dicono ok, io queste guardie di frontiera, se portassero Sara presso la casa, il palazzo reale del faraone, sicuramente avranno qualche beneficio in quanto porteranno questa bellissima donna da lui. Allora gli conviene. Allora prendiamo questa donna, la portiamo dal faraone. Ah, ma è una donna sposata. Ok, uccidiamo il marito. Avram, prevedendo tutto ciò, conoscendo il funzionamento delle cose, dice a Sara, di che sei mia sorella. In questo caso cosa succede? Forse sarai presa dal faraone, ma almeno io rimarrò in vita. Non dovrò essere per questo ucciso. Leggiamo, dice la Torah, Imrina achoti at, di per favore che sei mia sorella, le mani tavli bavurech vechayeta nafshi biglalech, in modo che affinché io possa avere in grazia tua il beneficio di aver salva la vita. Ok, vayehi kevo Avram Mitzrayma, e quindi quando Avram entrò in Egitto, vayiru amitzrim et haisha ki yafa hi meod. Appunto, come prevedeva, gli egiziani notarono che la donna era molto bella. Vairu ota sarei parò, la videro i notabili del faraone, vaiale luota il parò, e gliene fecero l'elogio al faraone, davanti al faraone, vatuka haisha beta farò, beit parò. E la donna fu presa, quindi fu rapita e fu portata davanti al faraone. Dico rapita perché chiaramente non è andata di propria volontà. Ora, ule Avram, al tempo stesso, Avram che era teoricamente il fratello, ule Avram etiv bavura. Per Avram, Avram beneficò per causa sua. Perché? Perché ricevette vailot zonu vakar vachamorim vavadim ushfachot vatonot ugmalim. Ricevette bestiame, ovino e bovino, asini, schiavi, schiave, asine e cammelli. Cioè, nel riconoscere che hanno preso la sua sorella, lui è il capo famiglia, gli sono stati fatti tutti questi doni importanti. Cosa succede? Vayenaga Hashem et parò negaim gedolim vet beitò. Signore colpì il faraone e la sua casa, i membri quindi della casa reale, con grandi castighi e cagione, a cagione di Sarai, moglie di Avram. Vaikra farò le Avram, vedendo questo il faraone chiama Avram. Vaiomere gli disse, ma zota sitali, che cos'è questa cosa che mi hai fatto? Lama lo igadeta lì, perché non mi hai detto chi ishtecha hi, che è lei la tua moglie. Lama amarta achoti hi, perché hai detto invece che lei è tua sorella? Vaikacho tali lisha, e io la presi per moglie per me. Veata, e ora hine ishtecha kach valech, e ora dunque prendi tua moglie e vai. Non è finita la storia. Vayetzava lav parò anashim, incaricati del faraone accompagnarono lui e sua moglie, vayishalechu oto vet ishto vet kol asher lo, con tutto ciò che gli apparteneva. Prosegue il racconto e dice, vayal Avram mi Mitzrayim, Avram salì su, quindi tornò via dall'Egitto, partì da lì, hu, egli stesso, vishto vekol asher lo, con sua moglie e tutto quanto possedeva, ve Lot immo, e con chi era venuto con loro, cioè il nipote Lot, a Negba, verso il Negev, verso il sud della terra di Canaan. Ve Avram kaved meod, era Avram in quel momento molto appesantito dalle ricchezze che aveva, Bamikne, Bakesef u Vazahav, per il bestiame, l'oro e l'argento che aveva con sé. Vayelech le Massaav, andando, proseguendo nei suoi viaggi da Minnegev ve Ad Betel, quindi tornando su, attraversando il Negev fino al posto, luogo che abbiamo già menzionato la scorsa volta, Betel, Adam Akomeshera Yasham Aoloba Techila, giungendo fino allo stesso luogo in cui aveva piantato la sua tenda all'inizio, Ben Betel Uvenaai, El Mikoma Misbeach, che era lo stesso luogo dove aveva costruito l'altare la prima volta, prima di scendere in Egitto, Ashera Sasham Barishonah, Vaikra, e conclude questo racconto, Vaikra Sham Avram Beshem Hashem, e invocò là il nome Avram, il nome del Signore, il nome di Hashem. Ora questo racconto, prendiamolo un pezzo alla volta. Guardiamo prima di tutto la discesa, il partire dalla terra di Canaan alla terra d'Egitto. Sembra un versetto semplice con il quale la Torah introduce il concetto. C'era una carestia e a causa di questa carestia non potevano rimanere nella terra e dovettero partire. Bene. Perché questa è una prova così particolare? Allora Rashi subito ci dà un'altra, non un'altra, ma un approfondimento della prospettiva. Rashi dice così: Ra'av ba'aretz be'ota eretz levada. La carestia interessava solamente quella terra. Quindi parliamo di un luogo geograficamente abbastanza limitato e di un problema che non tocca tutti i dintorni, ma quel posto lì. Questo perché le nassotò, per metterlo alla prova, per vedere se Avraham appunto inizierà a ripensare tutte le cose che gli sono state promesse da Kadosh Baruch Hu, e se forse sarà messa in questione la sua fede, se metterà in dubbio le parole di HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu gli ha detto: vai alla terra di Canaan e lì ti fermerai, lì dovrai fare tutto quello che ti comanderò. Ora fai in modo che esce dalla terra di Canaan, non ha scelta, sembrerebbe. Quindi Avram è andato in Eretz Israele, ha fatto l'Aliyah, non perché qualcuno l'ha convinto, la Sochnut, o per qualche beneficio, semplicemente perché HaKadosh Baruch Hu gli ha detto di andare lì. Questo era il luogo in cui lui doveva recarsi. Ed era un luogo sconosciuto da lui, non sapeva cosa avrebbe trovato lì. Cioè è andato con la forza della sua emunah, della sua fede cieca in Hashem. Cosa accade? Arriva lì e c'è questa carestia e la Torah sottolinea che era un Ra'av Kaved, Kaved Ra'av, era una carestia molto importante, letteralmente Kaved pesante. Come ci si poteva salvare teoricamente? Solamente andando in Egitto, perché l'Egitto, anche se la carestia, cioè se fosse causata dalla mancanza di piogge, comunque l'Egitto si potrebbe salvare. Perché? Perché il benessere dell'Egitto, come sappiamo, dipende dal Nilo. E non come in Eretz Israel, che dipende dalla pioggia. Anche fino ad oggi la maggioranza, più del 90% della popolazione in Egitto, dimora, abita nei pressi delle terre baciate dalle acque del Nilo. E allora Avraham va in Egitto, ma la Torah sottolinea lagur. Lagur vuol dire per abitare temporaneamente, non per cambiare dimora in maniera fissa. Quindi questo versetto descrive questa prova. La domanda è: dove si esprime nel dettaglio il discorso della prova? È per capire se Avraham lascerà la terra oppure rimarrà lì nonostante la carestia? O è per capire che Avraham rimane fedele, la sua emunà è intoccata, nonostante è costretto a lasciare la terra. Comunque, dice, in una maniera o un'altra, si realizzerà tutto ciò che Hashem ha promesso. Per rispondere a questa domanda, qual è veramente la prova? Dobbiamo in realtà sapere che ci sono diverse opinioni. Una opinione molto importante è quella del Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, che in realtà è abbastanza, è una visione non molto condivisa dagli altri commentatori, come vedremo, ma il Ramban ritiene che la prova davvero è stata per vedere se Avram sarebbe rimasto lì nonostante tutto o avrebbe detto non c'è possibilità e me ne devo andare almeno per il momento. E per il Ramban il fatto che Avram sia partito con tutto quello che ha fatto eccetera, ma è partito da Eretz Israel, per il Ramban questo significa che non ha superato la prova. Il Ramban lo considera un peccato da parte di Avram, una mancanza nei confronti di quella mitzvah, chiamiamola così, di quel precetto, di quel comandamento che gli è stato dato da parte di HaKadosh Baruch Hu, e non è riuscito in quel momento a metterlo in atto, a rimanere lì. Il Ramban usa proprio il termine Avon Asher Chata, è una trasgressione, è un peccato che Avram fece. Perché in qualche maniera HaKadosh Baruch Hu lo avrebbe aiutato se lui fosse rimasto lì e avesse seguito la parola di Hashem. Secondo questa interpretazione, effettivamente sembrerebbe, secondo il Ramban, e lo dice anche, che Avram non ha superato questa prova. Ma la maggior parte dei Mefarshim, la maggior parte dei commentatori non concordano con questa visione e invece sono dell'opinione che la prova non riguardava la sua permanenza fisica lì, la prova riguardava la permanenza della sua fede nel cuore, e cioè come sarebbe stata la sua reazione al suo interno se sarebbe rimasto fedele alle parole di Hashem e avrebbe sempre ritenuto la fiducia che qualsiasi cosa Hashem ha detto, prima o poi, in un modo o un altro, sarà realizzato, si avvererà, o meno. E in questa visione ha sì superato la prova. Il Midrash dice, proprio su Vaira Av Baretz, quando ci fu la carestia, che nel momento in cui Avram lasciò diede retta, ubbidì il comando di Lech Lecha, vai via dalla tua casa, in quel momento iniziarono i problemi per Avram. Problemi economici, problemi di carestia, problemi legati alla possibilità di mantenersi. Ma Avram proseguì, e quando i problemi erano insostenibili in Eretz Canaan, andò in Egitto, ma non perse la emunà, non perse la fede e superò la prova. Andiamo a vedere la prossima prova che accade subito con l'arrivo in Egitto, ed è appunto il rapimento di Sarà. Anche questa è una prova per Avram. Vediamo un po'. Allora, come abbiamo spiegato prima citando i versetti, la situazione della corruzione morale e anche legale a quel punto, perché per loro questo rientrava nella legalità, per gli egizi, per gli antichi egizi in quel periodo almeno, e Avram quindi ha paura che sarà rapita dal faraone, ma essendo lui il marito, per loro la giustificazione è di uccidere il marito. Bene, però rimaniamo un pochino delusi perché ci aspettiamo che Avram protegga Sarà, ma il modo in cui Avram parla di proteggere se stesso. Di che sei mia sorella perché possa vivere io. Ed è qualcosa di... sembra strano. Avram pensa a vivere e non pensa a Sarà. Certo, Sarà è stata salvata alla fine e abbiamo spiegato anche la dinamica, come funzionava, però alla fine la salvezza di Sarai è causata da un miracolo. C'è un intervento divino. La Torah dice Vayinaga Hashem et Paro. Il Signore colpì il faraone con delle piaghe. Quindi punì il faraone e la sua famiglia, la sua casa. E allora Paro capisce che c'è qualcosa che non va, ma come fa a sapere esattamente qual è il problema? Allora Torah dice che è stato colpito al devar Sarai Eshet Avram, per il discorso, per il fatto di Sarai. E come sapeva però? Alla fine il faraone dice, perché non mi hai detto che è tua moglie? In realtà la risposta è nascosta nelle parole al devar, che vuol dire non solo per il fatto, ma anche per la parola. E cioè che Sara ha detto al faraone, in realtà io sono la moglie di quella persona, non la sorella. E quindi i commentatori cercano di capire e di spiegare il comportamento di Avram Avinu. E tra l'altro vediamo il commento della Barbanel, Don Yitzhak Barbanel, che dice com'è possibile, troviamo forse una persona di alto livello morale, alta moralità, che si comporta in una maniera così diciamo spregevole, di trovare un beneficio per sé mentre sua moglie viene portata per andare con un'altra persona. Avrebbe dovuto scegliere la morte, dice la Barbanel. Sarebbe stato meglio se Avram si fosse preparato per morire in un caso così. Cioè lo stesso Avram che è pronto a saltare nella fornace ardente per la sua fede in Hakadosh Baruch Hu, non è pronto qui a fare una cosa drastica per sua moglie? E anche qui abbiamo chiaramente più spiegazioni. La prima cosa, qualcuno spiega che, alcuni dei commentatori spiegano che Avram Avinu non intendeva davvero andare avanti con quel progetto, che Sara sia stata presa e lui si sarebbe salvato, eccetera, bensì cercava di guadagnare tempo, cercava di parlarci, di fare dei discorsi per poter guadagnare tempo, magari appunto come il capofamiglia, quello responsabile per questa donna, come appunto il contesto sociale dell'epoca richiedeva, avrebbe potuto fare una negoziazione, parlare di una ricompensa e nel mentre trovare un modo per uscirne fuori dal problema, o tornare indietro, non entrare in Egitto, in qualche maniera risolvere. Voleva guadagnare tempo e capire, tastare bene quelli con cui parlava e così via. Non tutti i commentatori sono d'accordo su questo. Tra l'altro il Sforno, maestro Rabbi Ovadia Sforno, maestro italiano, è uno dei commentatori che offre questa spiegazione. Però il Ramban di nuovo mette la colpa su Avram anche qui e dice che non ha agito come avrebbe dovuto agire, dice ha fatto Chet Gadol, un grande peccato, per aver portato la sua moglie in quelle condizioni, a quelle condizioni. Avrebbe dovuto anche qui tenersi forte nella sua fede in Hakadosh Baruch Hu, non dire una bugia, dire solamente la verità così come era, e sicuramente Hashem lo avrebbe aiutato se avesse superato la prova. Per il Ramban di nuovo anche qui Avram non ha superato la prova. La seconda spiegazione, qui entriamo già più nel metafisico, perché è una spiegazione offerta dal Zohar, dal libro base di Kabbalah, ma è una spiegazione che ci illumina anche sui termini, sulle modalità usate dai versetti che abbiamo letto. Il Zohar dice che Avram Avinu vide un angelo che era accanto a Sara come un angelo di protezione e per questo non aveva paura della sorte, dell'eventuale sorte di Sara. Ma con sé non vide nessun angelo, e quindi per lei era sicuro che sarebbe andato tutto bene, ma per sé non aveva questa sicurezza. Allora ha detto, lei è protetta e io non lo sono. Di conseguenza di che sei mia sorella, perché questo può essere un beneficio anche per me. Cioè il tuo angelo potrà proteggere anche me come tuo fratello. Quindi paradossalmente Avram qui parla solamente di sé, come abbiamo visto, e chiede che sia stato fatto, venga fatto un beneficio con sé, con Avram stesso. Ma nel Zohar noi vediamo che Avram non deve proteggere Sara, perché vede che è protetta in qualche maniera spirituale. Vede questo angelo protettivo. E allora è come se Avram, dice il Zohar, chiedesse a Sara di proteggere lui. Se sono tuo marito, allora verremo separati. La sorte è quella per gli egizi. Se sono tuo fratello, posso rimanere vicino a te, posso usufruire anch'io della protezione che tu hai. È interessante anche notare che il canto che cantiamo il venerdì sera prima del Kiddush, Eshet Chayil, che è il 32esimo capitolo dei Proverbi di Shlomo, che parla della grandezza della donna di valore, l'importanza della donna di valore. Normalmente si attribuisce questo canto da parte di Shlomo nei confronti di sua madre, Batsheva. Ma il Midrash dice, Eshet Chayil Miyumtza, chi può trovare una donna di valore, è un riferimento a Sara. Il secondo versetto dice, Batach ba lev bala. Il marito pone la sua fiducia in lei. E dice, e chi è il marito? È Avraham, che ha detto, tu di che sei mia sorella e anche io sarò protetto. Anche io ne trago beneficio. E Avraham loda, secondo questa interpretazione, Avraham loda Sara per il fatto che lei è potuta essere un appoggio per Avraham. Bene, secondo questa spiegazione, Avraham supera la prova. Avraham continua a tenere salda e ferma la sua fede in HaKadosh Baruch Hu e sa, quindi è sicuro che una protezione divina farà sì che nessun male cadrà su Sara. E non solo, anche lui cerca di appoggiarsi a quella stessa protezione che vede, di cui gode Sara, che sarà un beneficio anche per me. Allora è chiaro, però, di fatto, che per noi, la Gemara ci dice, i Chachamim ci insegnano che ci è vietato appoggiarsi ai miracoli. Quando affrontiamo le prove, dobbiamo comunque creare delle vie naturali per uscirne fuori, per superarle. Questo per noi. Per persone del calibro di Avram e Sara può darsi che sicuramente stavano su un altro livello e potevano sapere quando era possibile o sarebbe possibile appoggiarsi ad un miracolo. In ogni caso, solo per concludere questa parentesi con il Zohar dice che la nostra storia è una fonte, un appoggio per l'idea che la berachà del marito dipende dalla moglie. E il Zohar dice che, appunto dice questo, che per il merito della donna anche l'uomo merita la sua parnassà, la sua possibilità di sostentamento, e la Gemara dice, non solamente il Zohar, ma è una cosa che troviamo nella Gemara, dice che la berachà si trova in casa di una persona solo per merito della sua moglie. E ci si appoggia al versetto che abbiamo letto qui, Ulavram etiv ba'avurra, e ad Avram è stato fatto del bene per causa di Sarai. E uno dei maestri della Gemara, Ravà, in Babilonia, circa 1700 anni fa, disse, Livnei Mechosa, ai cittadini ebrei della sua città Mechosa, in Babilonia, dice Kabdu et neshotechem bichtei shetitashru. Date onore e rispetto alle vostre mogli perché possiate diventare ricchi. Quindi, chiusa questa parentesi, la domanda che ci poniamo è: dove è in questa storia di queste prove il Siman Labanim, e cioè le indicazioni per i figli, per noi, per le generazioni e per le generazioni che ci hanno preceduto, che siamo figli di Avram e Sara? Allora, innanzitutto, già abbiamo citato la scorsa volta dal Ramban e i Midrashim che dicono che tutto ciò che è avvenuto con Avram e con le avot in generale, con i padri e le madri in generale, sarà poi ripetuto nella storia con la storia dei figli, con la storia della loro discendenza, e la loro parte è stata quella come di spianare la strada, come di creare una situazione già, un'esperienza già fatta, perché l'esperienza poi ripetuta, tra virgolette, dalla loro discendenza sarà qualcosa di meno difficile. E qui vediamo che per causa di una carestia Avram scende in, va in Egitto. Ugualmente troveremo che per causa di una carestia Yaakov e le tribù vanno in Egitto. Va in Egitto Avram solo per una permanenza temporanea, si usa il termine lagur, e anche riguardo ai fratelli di Yosef quando vengono in Egitto è detto anche qui lagur baaretz. Siamo venuti solamente per soggiornare. E questa ripetizione della storia, diciamo, non è solamente per dare un'indicazione, capire che sarà così. No, è per dare la forza di come gestire quella situazione, per dare insegnamento, indicazioni e appunto la forza per cercare di capire come va affrontata la situazione. Avraham spiana la strada non solamente geograficamente o nel tipo di storia che accade, ma anche nel modo in cui lo affronta, soprattutto nel modo in cui lo affronta. E questo anche è sottolineato dal Midrash. Il Midrash dice, e poi anche riguardo il risultato, riguardo ad Avram, abbiamo visto che Avram torna via con molta ricchezza, e anche di Bene Israel, quando escono dall'Egitto, escono con molte ricchezze. Queste ricchezze sono state date a Faraone, ad Avram per volontà del Faraone, Vayetzav, Alav, Paro, come abbiamo letto prima, e anche per gli ebrei, quando sono usciti dall'Egitto, leggeremo in questa e la prossima parasha di queste settimane, Bob e Shalach, che gli ebrei escono con molti beni, e alla fine sono gli egiziani stessi a dare questi beni e a dire agli ebrei andatevene via dall'Egitto. E così via. Sono molti parallelismi. In questa seconda fase, in questa seconda prova, quella di Sarà, l'idea che Sarà è stata posta in quella situazione e che non è stata resa impura, secondo i nostri Chachamim, è come anche questo un spianare la strada per la situazione delle donne ebree in Egitto durante l'oppressione e la schiavitù, che sono riuscite a tenere la dignità e l'onore della famiglia ebraica intatte in merito di questo precedente, diciamo, di Sarà. E quindi anche secondo il Ramban, che Avram ha sbagliato nel suo modo di agire e di reagire in questa situazione, comunque ci sono sempre queste lezioni e queste indicazioni e queste, diciamo così, la forza, le forze, le energie spirituali che possiamo prendere dai precedenti già accaduti per le situazioni che sarebbero accadute dopo e anche per situazioni successive ancora fino ai nostri giorni. Possiamo imparare che l'ebreo, in qualsiasi situazione non si dovesse trovare, ha comunque un tesoro, un magazzino di forza interna che deve scoprire, che può scoprire e può usarlo per superare le difficoltà. Non deve quindi perdere la, diciamo, rinunciare, perdere la speranza. Allora, per concludere, la quarta parte di quello che abbiamo letto nei versetti oggi è che Avram torna via, e la Torah vuole essere molto precisa in che maniera torna via Avram, lui stesso, Veishto e sua moglie. Quindi, in altre parole, non c'è stato nessun problema alla fine tra Parò e Sarai, e quindi può tranquillamente continuare ad essere la moglie di Avram. E vechol asher lo, inoltre tutto ciò che aveva con sé, in altre parole, anche se il faraone ha capito che Avram inizialmente gli ha detto la sorella, ma era in realtà la moglie, quindi avrebbe potuto magari anche punirlo, o cacciarlo via senza nulla, no, lo ha mandato via con tutti quei beni e tutte quelle ricchezze che gli aveva dato, credendo che sarebbe diventato la moglie sua del faraone, diventata. E questo, dicono i commentatori, troviamo proprio nel Ramban, che dice questo è un nes, è un miracolo, non ha nessun senso a livello logico. E poi Velot Imo, c'era con lui ancora anche Lot, il nipote, il figlio di Aran, che come abbiamo raccontato nelle precedenti puntate era morto. E quindi, perché viene menzionato qui Lot? Perché nel prossimo brano della Torah troveremo che Lot diventerà una persona, una figura importante di per sé, e questo avrà delle conseguenze. In ogni caso, Avram, la Torah ci dice, è molto ricco, ha tutto il peso delle bestie e dei beni che ha con sé. E Vayelech le Masa'av, dice la Torah, torna sui suoi viaggi, va per i suoi viaggi. Quali sono i suoi viaggi? Fa il viaggio, che vuol dire va per i suoi viaggi? La Torah allude qui all'idea che Avram fa la stessa strada che ha fatto all'andata, fa anche al ritorno. Perché è importante questo? Allora Rashi dà due spiegazioni, offre due spiegazioni. La prima spiegazione che offre Rashi e dice che Avram tornò per la stessa strada e pernottò nelle stesse pensioni nelle quali pernottò alla partenza, all'andata, e andò lì negli stessi posti anche al ritorno. E allora, cosa c'è di importante in questo? È importante perché la Torah ci ha spiegato che Avram adesso, la sua situazione economica, è cambiata totalmente. In bene, Avram ora è ricco. All'andata Avram non era ricco, perché se fosse ricco avrebbe potuto in qualche maniera sopravvivere in Eretz Israel. Allora un povero non va allo stesso albergo dove va il ricco. Avram rimane nella stessa umiltà e frequenta gli stessi posti che ha frequentato all'andata quando non aveva possibilità. Ora, quando ha la possibilità di andare all'albergo di lusso 5 stelle nel Sinai, o la strada che ha fatto, rimane nella sua umiltà. Dice Rashi, l'imdecha Torah derech eretz shelo yishane adam mechsania shelo. Il giusto comportamento è di non è di innanzitutto essere fedele, anche come cliente, sembrerebbe che dica, a chi uno ha già usufruito del servizio offerto, e di non darsi quell'importanza che potrebbe considerarsi, con la quale potrebbe considerarsi a causa della sua cambiata situazione economica. Ma Rashi, come dicevo, aggiunge anche un'altra spiegazione, Davar Acher, una spiegazione alternativa è che Avram non aveva la possibilità di pagare le spese del viaggio, i pernottamenti che fece all'andata, ma al ritorno passò per gli stessi luoghi e coprì tutti i debiti che aveva lasciato prima. Avram torna e fa una cosa simile a quella che ha fatto prima, rifà un altare, e cioè ringrazia Kadosh Baruch Hu, fa un'offerta, un sacrificio per Kadosh Baruch Hu, che è il punto dell'altare, ma soprattutto vaikra b'shem Hashem, invoca il nome del Signore, che secondo i commentatori vuol dire non solamente che lui invoca per sé e dice grazie a Kadosh Baruch Hu, ma come dice il Midrash, al tikra vaikra e la vaiakri, non solo Avram invoca lui, ma fa invocare agli altri, e cioè prosegue nella sua missione di portare la gente alla fede in Hakadosh Baruch Hu. Grazie, ci vediamo alla prossima puntata.